in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Mi fa un po' effetto vedere questa data scritta oggi, perché ve lo confesso, oggi è il mio compleanno, che sono nata nel 1969, quindi ne compio 48, ma è anche il compleanno di mia sorella, che è nata 3 anni dopo di me, quindi ne compio 45, e mia sorella Martina faccio gli auguri. Scusate la nota personale, ma davvero è inusuale per me, mi fa sempre specie vedere scritto 21 ottobre. Iniziamo però da un argomento molto più serio del mio compleanno, che sono le elezioni in Repubblica Ceca. E si sono svolte in parte ieri e le urne resteranno aperte oggi, quindi i risultati li avremo probabilmente domani. E quello che spaventa molti osservatori è che anche in Repubblica Ceca potrebbe esserci una svolta verso destra, ma non semplicemente una destra politica, ma una destra che qui siamo abituati a chiamare populista, un termine con il quale si intende comunque una forza politica che semplifica un po' troppo le cose, con questo probabilmente malcelato senso di dover semplificare per il cosiddetto popolo. E soprattutto in questi casi, in questi anni, ci si è concentrati sui pericoli rappresentati dall'immigrazione. Sta succedendo anche in Repubblica Ceca, tanto che Luboš Palata su Visegrad Insight, una pubblicazione di Varsavia che trovate anche in inglese sul sito di voxeurope.eu, scrive: un'altra sfida per la democrazia in Europa centrale. Il popolare miliardario e appariscente candidato populista Andrej Babiš è in testa nei sondaggi per le elezioni. Le altre forze politiche sono così deboli che il suo principale sfidante è un partito nazionalista di estrema destra. Il paese si sta allineando allo scenario ungherese, da qui appunto il parallelo con, sapete, l'attuale situazione politica in Ungheria, che è guidata da sicuramente un uomo di destra, che è Orban, Viktor Orban. A proposito invece di giovani, di una parte più allargata dell'Europa, non soltanto l'Europa centrale, vi segnalo, perché anche qui non è proprio una buona notizia, è un'analisi fatta da Alternative Economique a Parigi, che si intitola: in Europa più di un giovane su 10 non lavora né studia. Gli americani li chiamano NEET, Not Employed Either Working, si tratta naturalmente di forse un problema generazionale, ma come definiamo le generazioni? Di fatto, diciamo che dal 2008, quando è esplosa la crisi economico-finanziaria anche in Europa, sulla scia di quello che era successo in America con la miccia del crack Lehman Brothers, adesso il dato è questo: l'11,5% dei giovani europei fra i 15 e i 25 anni non lavorano e non ricevono alcuna formazione. Sciogliamo esattamente questo acronimo NEETS, che sta per Neither in Employment nor in Education or Training, quindi non hanno un lavoro, employed, non stanno studiando education e non stanno neanche facendo una qualche sorta di stage. È sicuramente una situazione che in Italia poi conosciamo particolarmente bene, tanto che in questo articolo si sottolinea anche come i paesi mediterranei sono quelli in cui si registra la più alta percentuale di NEETs, che sono tra l'altro destinati molto spesso, anche qui speriamo naturalmente che con questa tanto acclamata ripresa la situazione cambi, però sono quelli destinati spesso a diventare dei disoccupati di lunga durata. Vi segnalo poi alcuni altri articoli di temi anche diversi. Facciamo sempre un po' questo percorso così che ci porta su tanti temi in tanti paesi. A proposito di Stati Uniti, di mosse finanziarie, non dimentichiamoci mai appunto quello che è successo nel 2008, teniamo d'occhio la finanza, perché poi come sappiamo ci sono delle dinamiche che ci sfuggono, ma che poi hanno i loro effetti sull'economia reale. Abbiamo parlato appunto del crack di una banca d'affari, Lehman Brothers, che ha portato a una crisi economica senza precedenti, E allora il Wall Street Journal racconta di questa mossa di JP Morgan Chase, che è uno dei più importanti istituti bancari americani, che ha messo a segno la sua prima acquisizione di un certo peso in una società, attenzione, del settore della financial technology, perché la finanza naturalmente ha sempre usato moltissimo l'informatica, la tecnologia, e adesso però ci sono anche tutti questi nuovi software. Ne parla spesso anche sul Sole 24 Ore il nostro collega di finanza Vittorio Carlini. In questo caso, questo software che si chiama WePay, si chiama così anche la startup che lo ha messo a punto, è un software che si occupa di pagamenti e ha tra i propri clienti 4 milioni di piccole aziende. Non è dato sapere quanto ha pagato JP Morgan questa startup, però sicuramente è un segnale importante, perché finora JP Morgan si era un po' tenuta lontana da questo tipo di operazioni. E a proposito invece di colossi tecnologici, non certo di startup, Financial Times racconta che Alphabet, che è la holding a cui fa capo Google, non è tanto che Google ha cambiato un po' questa, ma è soltanto un cambio di etichetta, poi in realtà appunto è la holding che controlla il colosso Google, che sappiamo è nato come motore di ricerca e ora è tutto, farà forse presto anche le macchine che si guidano da sole. In ogni caso, secondo questo articolo di Financial Times, Alphabet punta a creare le città del futuro, sviluppando contesti urbani altamente tecnologici. Un progetto ambizioso e per ora unico, che partirà subito da un quartiere di Toronto, in Canada. E questa, naturalmente, tutto questo è fatto da una controllata di Alphabet che si chiama Sidewalk Lab, che letteralmente vuol dire laboratorio del marciapiede, che svilupperà lungo il lago Ontario un quartiere di 48.500 metri quadrati circa, e che in futuro si espanderà ulteriormente. In questo progetto sono previsti shuttle autonomi, quindi senza conducente, semafori in grado di rilevare la presenza di pedoni, abitazioni modulari e robot per le consegne che si spostano in tunnel sotterranei. Sembra veramente spazio 1999, che appunto io, essendo del 69, me lo ricordo molto bene. Era una serie TV che guardavo quando ero poco più che una bambina. Si ipotizzava che nel 99 ci sarebbe stata la colonizzazione della Luna, come sappiamo non è successo, però ecco, quelle serie fantascientifiche ricordano un po' quello che invece Google sembra veramente voler attuare a breve. A proposito di ricerca, vi segnalo un articolo pubblicato dal New Scientist. In questo caso non è ricerca tecnologica, o meglio è ricerca scientifica e medica, che naturalmente ha subito un'accelerazione pazzesca negli ultimi anni grazie alle tecnologie, in particolare alle tecnologie che analizzano il DNA. Da qui l'articolo apparso su New Scientist, in questo caso come ho detto lo trovate su Internazionale, che si intitola "Quanto valgono i nostri geni?". Le aziende che ci vendono i test del DNA spesso cedono alle case farmaceutiche i nostri dati genetici, incassando somme notevoli. Dovrebbero darci una percentuale? Forse, tutto sommato, sì, perché se questi dati serviranno o per una fase di studio e poi magari anche per una fase di commercializzazione di questi farmaci che diventano sempre più specifici, se io con il mio piccolo DNA ho dato il mio piccolo contributo, forse ho diritto a così un piccolo guadagno preventivo. Ma è tutto naturalmente da definire, questa materia, perché è la tipica materia dove la legge non riesce a stare al passo con la ricerca tecnologica. A proposito di stare al passo, Tageszeitung, un giornale tedesco, ha pubblicato una breve analisi di una scelta che è annunciata negli Stati Uniti, che non è uno sguardo al futuro ma un ritorno al passato, con questo annuncio fatto da Donald Trump di voler tornare a utilizzare molto più che quanto auspicato soprattutto dalle due amministrazioni Obama, a tornare all'uso del carbone. Gli Stati Uniti tornano al carbone, è un annuncio che naturalmente ha un po' messo in agitazione soprattutto gli ambientalisti. Ultimissima segnalazione, è un articolo apparso sul Clarín in Argentina, è stato tradotto anche in questo caso da Internazionale, l'ha scritto John Lee Anderson, che è un giornalista americano, un vero inviato di guerra, un vero giornalista che viaggia e poi racconta quello che vede. Ha scritto anche una monumentale biografia su Che Guevara, e quindi questo articolo, Cosa resta oggi del mito di Ernesto Guevara, 50 anni fa, sapete che appunto è passato il 19 ottobre, quindi appena 2 giorni fa, veniva ucciso nel 1967 il guerrigliero che aveva combattuto con Fidel Castro. Sono passati tutti questi anni, John Lee Anderson spiega perché è ancora un simbolo per molti. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, un arrivederci, un a risentirci a sabato prossimo quando avrò una settimana in più.